Ho preso alcune cose per il viaggio, un paio di buone idee per fare strada, una sveglia per tenere vivo l'entusiasmo, cose per lavarmi, perché ci sarà da sudare, e una carta d'identità che mi ricorda chi sono. Non mi serve altro, più sono libero e più andrò lontano. Non sono nato per stare dietro a un finestrino.